Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Il signor Weston confessò di aver immaginato che prima o poi sarebbe nevicato, ma di non averne fatto parola per timore di creare imbarazzo al signor Woodhouse e fornirgli una scusa per anticipare il ritorno. Quanto all'essere caduta o all'essere in procinto di cadere una quantità di neve sufficiente a impedire il ritorno dei suoi ospiti, era soltanto uno scherzo. Il suo timore era che non trovassero difficoltà veruna, il suo desiderio che la strada si mostrasse impraticabile, in modo da poterli trattenere tutti a Randalls, e col massimo zelo si proclamò sicuro che una sistemazione per tutti si sarebbe trovata, invocando dalla moglie la conferma che, con qualche accorgimento, era possibile ospitare chiunque, cosa in cui ella non sapeva proprio come accontentarlo, dato che in tutta la casa le stanze libere erano soltanto due. «Che fare, mia cara Emma, che fare?» fu la prima esclamazione del signor Woodhouse e tutto ciò che per qualche tempo seppe dire. A lei guardava in cerca di conforto e le sue assicurazioni che non v'era nulla da temere, che i cavalli erano eccellenti e non meno James e che con tanti amici attorno si trovavano al sicuro, finirono per rianimarlo un tantino. Pari alla sua era l'apprensione della figlia maggiore. Vibrava tutta all'orrore di rimaner bloccata a Randalls mentre i suoi bambini erano ad Harfield e immaginando che la strada fosse appena appena praticabile per gente spericolata ma in condizioni che non ammettevano indugi, era ansiosa si convenisse che il padre ed Emma rimanessero a Randalls mentre lei e John sarebbero partiti subito attraverso tutti i mucchi di neve spinta dalla bufera che ne potessero ostacolare il cammino. «Faresti bene a ordinare subito la carrozza, amore mio», disse. «Posso credere che se partiamo immediatamente ce la faremo ancora. E se dovessimo imbatterci in difficoltà serie, potrò scendere e continuare a piedi. Non ho affatto paura. Non ci baderei a fare a piedi metà strada. Appena a casa, sai, posso cambiarmi le scarpe e non è questo il genere di cose che mi faccia buscare un raffreddore». «Proprio davvero», rispose lui. «Allora, mia cara Isabella, è il genere di cose più straordinario del mondo, perché in generale non c'è nulla che non ti faccia buscare un raffreddore. Andare a casa a piedi. Hai proprio le scarpe che ci vogliono per andare a casa a piedi. Sarà già un disastro per i cavalli». Isabella si volse alla signora Weston come per chiederle l'approvazione di quel piano, e la signora Weston non poté che darle ragione. Isabella allora andò da Emma. Ma Emma non voleva abbandonare del tutto la speranza che riuscissero a partire anche gli altri e si stava ancora dibattendo la questione quando Mr. Knightley, che aveva lasciato la stanza subito dopo le prime notizie del fratello sulla neve, rientrò a dire che era stato a dare un'occhiata e poteva garantire che non ci sarebbe stata la minima difficoltà a rincasare in qualunque momento volessero, adesso o un'ora dopo. Era stato oltre il viale delle carrozze, un certo tratto sulla via di Highbury. La neve non superava in nessun punto il mezzo pollice. Qua e là non bastava neppure a imbiancare il terreno. Al momento cadeva qualche rado fiocco, ma le nuvole andavano rompendosi e aveva tutta l'aria di smetter presto. Aveva parlato coi cocchieri e tutti e due erano d'accordo con lui che non ci fosse nulla da temere. Per Isabella il sollievo di queste notizie fu grande. Nemmeno gradite riuscirono ad Emma per via di suo padre, che su questo punto si rasserenò immediatamente nei limiti che il suo sistema nervoso permetteva. Ma l'allarme sollevato non poteva placarsi tanto da lasciarlo tranquillo finché rimaneva a Randalls. Si rallegrava che per ora il ritorno a casa non presentasse rischi, ma nessuna assicurazione poteva convincerlo che fosse prudente trattenersi. E mentre gli altri insistevano suggerendo questo e quello, il signor Knightley ed Emma liquidarono la faccenda in poche e brevi frasi. «Suo padre non avrà pace, perché non partire?» «Io sono pronta, se anche gli altri lo sono. Devo suonare il campanello?» «Sì, lo faccia». E il campanello fu suonato e ordinate le carrozze. Pochi minuti ancora ed Emma sperava di veder depositato a casa propria un compagno fastidioso che rimettesse la testa a partito e l'altro di ritrovare il buon umore e la serenità appena terminata quella burrascosa visita. Le carrozze vennero e il signor Woodhouse, sempre il primo oggetto di cure in simili occasioni, fu premurosamente accompagnato alla sua dal signor Knightley e dal signor Weston. Ma nulla di quanto l'uno o l'altro poté dire riuscì a evitare un certo ritorno di apprensione alla vista della neve che era effettivamente caduta e alla scoperta di una notte molto più buia di quanto si fosse aspettato. Temeva che alla povera Isabella non garbasse punto e nella carrozza di dietro ci sarebbe stata la povera Emma. Davvero non sapeva che cosa fosse meglio fare. Dovevano tenersi il più possibile vicini. E si parlò a James, ordinandogli di procedere ad agio e di attendere l'altra vettura. Isabella salì dietro suo padre. John Knightley, dimenticando che non apparteneva alla stessa compagnia, salì con molta naturalezza dietro la moglie. Cosicché Emma, scortata e seguita nella seconda carrozza dal reverendo Elton, si avvide che lo sportello, come di dovere, sarebbe stato chiuso dietro di loro e che li attendeva un viaggio tête-à-tête. Prima dei sospetti di quella stessa giornata, l'imbarazzo non sarebbe durato più di un attimo. Sarebbe stato, anzi, un piacere. Avrebbero potuto parlare di Harriet e i tre quarti di miglio sarebbero sembrati uno solo. Ma ora avrebbe preferito che così non fosse, perché temeva che avesse bevuto troppo del buon vino di Mr. Weston e presentiva che sarebbe stato in vena di discorsi insulsi. Per frenarlo, nei limiti del possibile, con l'esempio dei propri modi, si dispose immediatamente a parlare, con calma e gravità squisite, del tempo e della sera. Ma aveva appena aperto bocca. Il portale d'ingresso era stato appena varcato e l'altra carrozza raggiunta, quando si vide troncare il discorso, afferrare la mano, chiedere attenzione e il reverendo Elton buttarsi a farle la corte approfittando dell'occasione propizia, professando sentimenti che già le dovevano essere noti, sperando, temendo, adorando, pronto a morire se lo si rifiutava, ma lusingandosi che il suo ardente affetto, l'amore sconfinato, la passione inarrivabile non avrebbero mancato di esercitare qualche influsso e in breve seriamente deciso a farsi rispondere al più presto possibile di sì. Dunque, così stavano le cose. Senza scrupoli, senza giustificazioni, senza grandi e visibili incertezze, il reverendo Elton, l'innamorato di Harriet, si dichiarava suo innamorato. Cercò di interromperlo, ma invano. Egli era risoluto a proseguire, a vuotare il sacco. Pur sdegnata al pensiero delle circostanze del momento, Emma decise nel parlare di moderarsi. Sentiva che metà di quella follia era effetto dell'ubriacatura e poteva quindi sperare che appartenesse solo all'ora che fugge. Perciò, con un misto di serio e di scherzoso che sperava più consono al suo stato mezzo e mezzo, rispose: «Sono stupefatta, reverendo. Far questo a me! Lei perde la testa, mi scambia per la mia amica. Se si trattasse di consegnare un messaggio qualunque a Miss Smith, sarei ben lieta di farlo. Ma basta di ciò, a me, la prego!» «Miss Smith? Messaggio a Miss Smith? Che cosa può voler dire?» E ripeté le parole di Emma con accento così sicuro, con una pretesa così ostentata di cader dalle nuvole, che ella non poté trattenersi dal rispondere: «Reverendo, ma questo è un modo di fare davvero sorprendente. Posso spiegarlo in un solo modo. Lei non è in sé, altrimenti non potrebbe parlare così né a me né di Harriet. Si controlli quanto basta per non aggiungere altro e mi sforzerò di dimenticare.» Ma il reverendo Elton aveva bevuto a sufficienza per crescere di tono, non certo per confondersi le idee. sapeva perfettamente a che cosa mirava e, protestato energicamente contro i sospetti di lei, qualificandoli ingiuriosi, e accennato di sfuggita alla considerazione in cui teneva Harriet come amica sua, ma professando il massimo stupore che la si menzionasse affatto, riprese il tema della sua passione e fu molto insistente nel chiedere risposta favorevole. Meno lo pensava ubriaco, più Emma lo giudicava incostante e presuntuoso, e meno, preoccupandosi d'essere cortese, rispose: «Impossibile avere altri dubbi. Si è spiegato fin troppo bene, reverendo Elton, e il mio stupore è tale da non poterlo nemmeno esprimere. Dopo l'atteggiamento che nell'ultimo mese l'ho vista tenere con la signorina Smith, dopo le attenzioni delle quali sono stata giornalmente testimone, parlarmi in questo modo... Oh, è un'incostanza di carattere che davvero non avrei supposto possibile. Mi creda, reverendo, sono tutt'altro che lusingata d'essere oggetto di simili effusioni.» «Santo cielo!» esclamò il pastore Elton. «Che senso può avere tutto ciò? La signorina Smith! In tutto il corso della mia esistenza non ho mai pensato alla signorina Smith. Non le ho mai usato attenzioni se non come sua amica. Non mi sono mai dato pensiero che fosse morta o viva, salvo in quanto era amica sua. Se lei si è immaginata altro, sono i suoi desideri che l'hanno spinta fuori strada, e io ne sono addolorato, estremamente addolorato. Altro che Miss Smith! Oh, signorina Woodhouse, chi può pensare a Miss Smith quando è vicina a Miss Woodhouse? No, parola d'onore, non c'è in me incostanza di carattere. Non ho pensato che a lei. Nego di aver prestato la minima attenzione a nessun'altra donna. Qualunque cosa abbia fatto o detto per settimane e settimane ha avuto il solo scopo di mettere in rilievo la mia adorazione per lei. Davvero, non può seriamente dubitarne. Oh no, aggiunse con accento che voleva essere insinuante, sono certo che ella mi abbia visto e compreso. Che cosa sentisse Emma nell'udir ciò? Quale fra tutte le sue sensazioni sgradevole fosse la più forte, sarebbe impossibile dire. Era troppo sopraffatta per poter rispondere immediatamente, e due minuti di silenzio, rappresentando per lo stato d'animo euforico del reverendo Elton un incoraggiamento più che sufficiente, tanto che cercò di riprenderle la mano, esclamando con gioia: «Deliziosa signorina Woodhouse! Mi permetta di interpretare questo adorabile silenzio. Esso conferma che non da oggi mi ha compreso.» «No, reverendo!» esclamò Emma. «Non conferma nulla di tutto ciò! Ben lungi dall'averla compresa, sono vissuta fino a questo momento nell'errore più completo circa le sue intenzioni. Quanto a me, mi duole enormemente che abbia dato briglia sciolta a qualunque aspirazione. Nulla poteva essere più lontano dai miei desideri. Il suo attaccamento per Harriet, la corte che faceva alla mia amica, giacché corte sembrava, mi davano un enorme piacere. E ho fatto caldi voti che andassero a buon fine. Ma se avessi supposto che non era Harriet ad attirarla, avrei certo pensato che si sbagliava di grosso nel rendere tanto frequenti le sue visite. Devo credere che non ha mai cercato di riuscire particolarmente gradito alla signorina Smith, che non ha mai pensato seriamente a lei?» «Mai, signorina!» esclamò lui, offeso a sua volta. «Mai, le assicuro! Pensare seriamente alla signorina Smith, io! La signorina Smith è un ottimo tipo di ragazza e sarei felice di vederla degnamente accasata. Le auguro ogni bene e senza dubbio v'è chi potrebbe non avere nulla in contrario a... Ognuno ha il suo livello, ma quanto a me non credo d'essere poi tanto sprovveduto. Non ho ragione di disperare in un matrimonio consono al mio stato al punto da dovermi rivolgere a Miss Smith. No, signorina, le mie visite ad Harfield erano soltanto per lei e l'incoraggiamento che ho avuto...» «Incoraggiamento? Io incoraggiarla? Lei, reverendo, si è completamente sbagliato a supporlo. In lei non ho mai visto che un ammiratore della mia amica. in nessun'altra luce poteva essere per me più di una conoscenza comune. Me ne duole immensamente. Ma è bene che l'equivoco finisca dove finisce. E se il suo modo d'agire fosse continuato, Miss Smith si sarebbe lasciata indurre a fraintendere le sue intenzioni, non accorgendosi probabilmente più che me ne accorga io del gran dislivello cui la signoria vostra è tanto sensibile. Ma così come stanno le cose, la delusione è da una parte sola e confido non duri molto. A sposarmi non ci penso per ora. Egli era troppo adirato per aggiungere parola. I modi di lei erano troppo decisi per invitare alla preghiera. Allora Emma ritenne indispensabile augurargli la buonanotte. L'augurio fu ricambiato tale quale, freddamente, con alterigia, e in uno stato di incredibile irritazione Emma raggiunse Hartfield. Fatti i ricci, mandata via la cameriera, Emma rimase seduta a riflettere e ad annarsi. Una brutta faccenda davvero. Un tale sovvertimento di tutto ciò che aveva sognato. Un tale sviluppo di tutto ciò che più le era sgradito. E questo era il peggio, un tale colpo per Harriet. Tutto in esso portava dolore e umiliazione, in un senso o nell'altro. Ma in confronto al male che faceva ad Harriet, tutto era leggero, ed ella avrebbe serenamente accettato di sentirsi più delusa, più in errore, più umiliata di aver visto male di quanto già fosse, purché le conseguenze dell'abbaglio preso si fossero potute limitare a lei. Se non avessi convinto Harriet a invaghirsene, avrei potuto tollerare qualunque cosa, perfino che raddoppiasse le sue pretese su di me. Invece, povera Harriet, come poteva essersi tanto ingannata? Elton protestava di non aver mai pensato seriamente ad Harriet, mai. Cercò finché possibile di guardarsi indietro, ma era tutto un garbuglio. S'era ficcata in testa quell'idea e aveva costretto ogni cosa a piegarvisi. Eppure i modi di Elton dovevano essere stati ben vaghi, oscillanti, dubbiosi, per farle perdere a quel punto la bussola. Il primo errore e il più grossolano stava in lei. Era sciocco, era assurdo prendere una parte così attiva nell'accomunare due vite. Era spingersi troppo oltre, presumere più del dovuto, prendere alla leggera quella che doveva essere una cosa seria, trasformare in abile gioco di mano quello che doveva essere semplice. Emma era sinceramente preoccupata e vergognosa e decisa a non ripetere mai più l'esperimento. Poi cominciò una più seria e fredda valutazione di ciò che era stato e poteva e doveva essere. La triste spiegazione che doveva dare ad Harriet e tutto ciò che la poveretta avrebbe sofferto, insieme col disagio di futuri incontri e la difficoltà di continuare o troncare i rapporti, soffocare sentimenti, nascondere rancori ed evitare il chiasso, bastarono a tenerla un po' più occupata in riflessioni molto malinconiche. E infine andò a letto senza aver concluso nulla, a parte la convinzione di aver preso il più spaventoso degli abbagli. A una giovinezza in naturale festosità come quelle di Emma, sebbene temporaneamente velate di notte, il ritorno del sole non manca mai di portare un ritorno di vita. Giovinezza e festosità del mattino sono con loro infelice analogia, e mirabile ne è il potere. Se il tormento non è tanto acuto da impedire agli occhi di chiudersi, è certo che si apriranno a sensazioni di minor pena e di più luminosa speranza. Il tempo le era decisamente favorevole. Sebbene fosse Natale, non poteva andare in chiesa. Se mai ci si fosse arrischiata, il padre sarebbe rimasto terribilmente in pena. Nulla perciò la costringeva a suggerire o ricevere idee sgradevoli e quanto mai inopportune. Il suolo era coperto di neve. L'atmosfera in quello stato fluttuante tra gelo e disgelo che è fra tutti il meno propizio al moto, e ogni mattino levandosi in pioggia o neve e ogni sera calando in un presentimento di ghiaccio, Emma fu per molti giorni prigioniera con onore. Nessun contatto con Harriet era possibile se non per lettera. Niente chiesa alla domenica più che a Natale. Nessun bisogno di trovar giustificazioni all'assenza del reverendo Elton. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.